brillerà fra le tenebre la tua luce e ti guiderà sempre, Signore. Ti sazierai in terreni alti, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non moriranno.